Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. L'economia europea supera le attese, la crescita dell'Eurozona, la Germania accelera, rallentamento atteso invece per la Francia. Cresce oltre le attese il PIL dell'Eurozona dello 0,3% tra ottobre e dicembre 2014, mentre era attesa una crescita dello 0,2%, e la Germania, la locomotiva economica dell'Europa, ha ripreso a correre. Il PIL è infatti cresciuto nel quarto trimestre dello 0,7% rispetto al più 0,1% della precedente rilevazione, un ritmo di crescita più che doppio rispetto alle attese che erano ferme allo 0,3%. Per l'economia tedesca la domanda interna ha fatto da traino alla crescita nell'ultimo scorcio dell'anno dopo la fase di debolezza, ma anche il calo dei prezzi del petrolio, l'aumento dei salari e il mini euro che ha aiutato l'export hanno fatto la loro parte. Rallenta invece l'economia francese, cresciuta dello 0,1% negli ultimi tre mesi del 2014, dopo il più 0,3% nel periodo precedente tra luglio e settembre. Il dato comunque in linea con le stime su cui il governo francese ha basato la sua ultima manovra correttiva a fine estate. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La discussione con la Grecia deve essere orientata ai risultati, dice la cancelliera tedesca Angela Merkel. Per cui, dato che l'attuale programma è in vigore sino a fine mese, se deve essere prolungato, spero di vederlo realizzato il prima possibile. Così appunto la Merkel dopo il vertice europeo, sottolineando che non era compito del Consiglio europeo occuparsene, ma che spetta sempre all'Eurogruppo. Quello che i paesi europei si aspettano è che la Grecia, dice la Merkel, non faccia troppo tardi nel decidere il da farsi. Intanto è iniziato questa mattina il lavoro tra i tecnici greci, funzionali delle tre istituzioni. Il nome Troica sostanzialmente da ieri è stato dismesso. Secondo quanto fanno sapere fonti dell'Eurogruppo, l'obiettivo del confronto è trovare le aree comuni dell'attuale programma europeo, di quello proposto dai greci, per avere così un terreno comune su cui lavorare all'Eurogruppo di lunedì. Questo è stato ed è un processo del tutto europeo, così l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini sui negoziati di Minsk sul futuro dell'Ucraina. Federica Mogherini rivendica la firma europea sull'accordo trovato ieri a Minsk sull'Ucraina. Questo è stato ed è un processo del tutto europeo, ha detto stamattina la titolare degli esteri in Europa. Il rischio però è che la firma dell'Europa sia stata posta in calce a un accordo già finito. La situazione è molto tesa in queste ore. Che gli accordi raggiunti ieri preludano una fragile tregua difficile da mantenere, lo dimostrano i nuovi scontri sul terreno fra ribelli e governativi. E lo dimostrano purtroppo anche le vittime, bombardamenti e combattimenti che continuano. Gli insorti accusano Kiev di aver colpito i territori separatisti e ucciso vari civili nelle ultime 24 ore, fra loro tre bambini. Nello stesso lasso di tempo l'Ucraina dà notizia di almeno 8 soldati colpiti a morte nel Donbass e 2 civili uccisi nel bombardamento di una caffetteria. Intanto il Cremlino fa sapere che a Minsk Mosca aveva chiesto una tregua immediata, ma è stata rimandata a mezzanotte di sabato su richiesta dei ribelli. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Via libera dalla Commissione europea 11 programmi regionali al piano cultura per il Sud per 5,5 miliardi 490 milioni di investimenti per crescita e occupazione in Italia. L'ok di Bruxelles va ai programmi operativi regionali per il 2014-2020 di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e le due province autonome di Trento e Bolzano. Il programma operativo Cultura e Sviluppo riguarda invece Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. È tutto per Europa 24. Vi saluto qui Daniele Biacchessi. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.